B-boys and B-babies, gentlemen and ladies. B-boys and B-babies, gentlemen and ladies. Porto un misero quarto di secolo sulle spalle come una statua in processione, per folklore più che per passione, dato che sono allontanato per ciò che sono, considerato poco di buono per come ragiono. Sono l'anziano dalla pelle senza grinze, il prete che rovina le vacanze e smuove le coscienze, il controllore che sospende partenze per certi viaggi. Se fumi vaffanculo, se non fumi i miei omaggi. Vedi, una persona tale è sconveniente, pessima come amica, fa fatica a stare tra la gente. Gente che dà un senso a niente, niente. Panico per ogni vizio che allontano un altro, fa da ostacolo. Mi danno del ridicolo, dicono che giudico e non sono l'unico. Ciucciano condensato e si illudono che quando vogliono smettono. La razza umana brama una sorte che sa di morte clinica, ma recita la solita cinica mimica. Vabbè, per oggi è andata, ma domani vabbè, per oggi è andata, ma domani vabbè, per oggi è andata, ma domani vabbè, per oggi è andata, ma domani c'è una forma d'arte che non porta da nessuna parte. C'era vita su un pianeta morto come Marte. Adesso m'hanno messo addosso certi pruriti da gesso per modellare qualcun altro su me stesso. Spesso cado in uno sconforto che pare eterno. Pago il prezzo del disprezzo allo strozzino di turno. Levati di torno, mi fanno sti falsi medici e sparano botti contro i miei fuochi pirotecnici. Mettici animo, ragazzo, in tutto quel che fai. Se vai sul palco vomiti e svieni, che cazzo d'esempio mi dai? Sai cosa sei? Sei pane per giovani menti, aborti viventi, scontenti a vita. Mi sa che non sono disturbato pianeta, combatto per non essere complice. Chi ama sto borghese moralista che detesta ciò che il mondo acclama? Nessun ipocrita che ancora vomita a 20 anni. Anche oggi si è preso la sua dose di danni. Vabbè, per oggi è andata, ma domani vabbè, per oggi è andata, ma domani vabbè, per oggi è andata, ma domani vabbè, per oggi è andata, ma domani. Forse sono nato vecchio, può darsi. Sono da ricoverare, sì. Tutto quello che so è che mi piace vivere libero di pensare. Tutto quello che ho è una fervida immaginazione che mi fa volare. Vabbè, per oggi è andata, ma domani vabbè, per oggi è andata, ma domani vabbè, per oggi è andata, ma domani vabbè, per oggi è andata, ma domani G-A-P-A-R-E-W-Z-A A, la, G, A, la, B, A, A.